avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier. Ve lo dico subito, così metto le mani avanti e intanto istigo le persone a chiamare al telefono, perché se voi non chiamate al telefono non mi diverto, dico la sincera verità. Questa mattina darò tonnellate di libri infami, sono pieno di libri infami, ho tutti i residui ancora delle strenne natalizie, quindi se volete questa mattina avrete una grandissima occasione per riempire quegli spazi vuoti delle vostre bibliotechine. Ma visto che parliamo di letteratura, visto che il libro infame comunque è un succedaneo di un'opera letteraria, potete benissimo mettere anche come oggetto di arredamento, distrattamente buttato su un tavolino quando vengono ospiti, parleremo della fortuna di alcuni libri in Italia. I benpensanti, moralisti, vestali dell'ottimo pensiero molte volte mi riprendono perché ho una sorta di personale dileggio per il feticismo del libro. Pochi giorni fa ho scritto su Facebook: butto nel cassonetto 100 libri, grazie a Dio dopo mezz'ora è passata una gentile melogmane sconosciuta a casa mia e se l'è portati via, se no avrei buttati veramente nel cassonetto, non so più chi darli, ormai non li voglio più nessuno, nemmeno le associazioni benefiche che li davano ai carcerati, li davano ai poveretti, li regalavano. Nessuno li vuole, dice, ma ce li porti, poi vediamo che libri sono, bisogna vedere, ce ne abbiamo già tanti, io perché devo portare i libri a uno che li regalo, se li venga a prendere. Infatti uso questo sistema della minaccia e del sacrilegio, butto via il libro, no, il libro non si butta mai via, il libro è qualcosa di sacro, ma io perché devo cambiare casa e comprare una casa più grande perché non c'entro più, ci sono troppi libri a casa mia, ma perché? Il problema è che forse probabilmente in Italia se ne stampano tanti, forse se ne stampano troppi, forse il senso del libro insomma è desacralizzato, non è più un oggetto dell'ingegno, non ha più una sua unicità, non è più il supporto che contiene un tracciato esistenziale, un baluginio di illuminazione geniale, un racconto sincero di vita, ma è qualcosa che comunque è un importante gadget perché ancora il libro conferisce dignità. Ho in mano la classifica dei libri più venduti del Corriere della Sera, l'ultima classifica dei libri più venduti. In testa c'è, primo, Benedetta Parodi, Benvenuti nella mia cucina, edizione Vallardi. Secondo, Benedetta Parodi, Cotto e mangiato, edizione Vallardi. Terzo, arrivato con un notevole vantaggio su altri libri importanti come quello di Faletti, come quello della Litizzetto, come quello di Umberto Eco, Antonella Clerici. Le ricette di Casa Clerici, edizione Rizzoli. Ora, se io fossi un ben pensante stimato dal pensiero ardimentoso, direi: mamma mia, in che mondo siamo, stracciamoci le vesti, dei libri di cucina che vanno per la più sorpassando importantissimi autori come, non so, Alberto Angela, primo nella classifica, Corrado Augias, secondo nella classifica di saggistica, non so, come altri importanti autori. Beh, questa mattina invece su questo vorrei riflettere. Come mai? Ci sarà una fattispecie, ci sarà un motivo, e ci sarà una ragione profonda per cui dei libri di ricettine di cucina, nemmeno tanto elaborate, semplici ricettine di cucina, sono in testa a tutte le classifiche. Ora, non mi meraviglia tanto che siano in testa le classifiche. Meraviglia il fatto che per avere in casa delle banali ricette di frittatine o di minestrina fatta con il dado, occorra comprare un libro. Perché? Perché forse il supporto libro conferisce dignità alla bassa materia della ricettina di cucina, dando grande dignità ai ricettari di cucina. 800240024, questo è il quesito di questa mattina. Benvenuti nella mia cucina, oggi facciamo i grissini ripieni, uno stuzzichino veloce, molto gustoso, perfetto per l'aperitivo. Prendiamo una pasta sfoglia già pronta e stesa, rompiamo un uovo e sbattiamolo. Spennelliamo completamente la sfoglia di uovo, lasciando diciamo appena appena un bordino esterno, perché sennò poi esce fuori. Un po' di parmigiano e poi completiamo la farcitura dei nostri grissini solo su una metà. Io questa volta farò Che la farcitura del grissino sia un argomento fondamentale, interessante, un elemento di coesione delle famiglie, una sorta di lussuriosa metafora atta a rinsaldare ogni rapporto coniugale, affettivo o semplice relazione fuggevole, non ci piove. Ma il fatto che comunque venga trasmessa incessantemente, tutti i giorni in televisione, il risultato, la quintessenza di quella sorta di gabinetto alchemico che è la cucinina personale della signora Parodi, non mi fa ancora capire il perché poi le persone vanno a comprare anche il libro. Perché è importante avere il libro? Perché tutti lo guardano in televisione, quindi avere il libro è come avere un pezzetto di quel meraviglioso evento televisivo? O perché si pensa che veramente averlo sempre sotto mano sia una sorta di prontuario della felicità? O perché piace la parodia? O perché è scritto bene? O perché esistono i significati sottili che persone così superficiali e così prevenute come me non riescono a cogliere? 800240024. Prima di tutto ti sei lavati subito le mani, tesoro. Che stress, anche di giovedì, che sono stanca, morta. Ascolta, che sono arrivata stamattina alle 3, sono qua che non mi reggo in piedi. Allora, ripetiamo bene, 300 grammi di farina, 150 grammi di zucchero, una bustina di vaniglia era questa. Ah, ecco, allora posso metterla insieme? Sì, sì, benissimo, vai. Poi abbiamo 125 grammi di burro, un uovo intero, un rosso, un bicchierino di liquore, il cognac, e poi abbiamo un pizzico di sale e un mezza bustina di lievito per dolci. Ci ho già messo. No, non l'hai messo. Che la Parodi piaccia comunque come punto di arrivo ideale a tutte le massaie, tutti vorrebbero essere come lei. Bella, rappresentante illustre di una professione come quella del giornalista, ma allo stesso tempo anche cuoca, quindi non rinnega niente a tutte le nature, è una sorta di Giano Bifronte che guarda sia verso dietro, verso il passato, a una figura di donna inchiodata, incatenata ai fornelli, ma lei ha rotto queste catene tenendo solo l'aspetto ludico, l'aspetto interessante, l'aspetto che attribuisce lustro alla sua femminilità perché è anche giornalista. E poi invece la Clerici è la più concreta rappresentazione del sonno carnale dell'italiano medio, che se la immagina lì imburrata come una petto di pollo messa in padella, e probabilmente anche per questo i libri della Clerici hanno fortuna. 800240024, dite la vostra o confessate se anche voi avete un sogno riposto nel cassetto, avete il libro che modificherà le classifiche dei libri più venduti in Italia e magari manca poco perché voi possiate pubblicarlo, o forse mancandovi la televisione non riuscirete mai ad arrivare appunto a questi livelli. Corto Mangiato ha avuto un grande successo, secondo te il perché di questo successo? E secondo me perché non sono una cuoca. Sì, cioè, sembra un paradosso, però sono esattamente come le persone che mi guardano, cioè una che si arrabatta in cucina, poi a furia di arrabattarsi ho anche magari una certa esperienza, però ecco, il fatto di cucinare come le persone che mi guardano e non con l'esperienza, con tutti i trucchi, con tutti, diciamo, anche gli strumenti che può avere un professionista, permette che sia facile alla persona che mi guarda. In qualche maniera la Parodi qui sta spiegando quello che secondo lei, ma è plausibile che sia così, è il segreto del suo successo. Cucina come cucinerebbe ogni qualsiasi donna che ha dei tempi limitati, ha una fantasia limitata perché non ha voglia di inventarsi chissà che, ha a disposizione nel frigo alcuni surgelati, alcuni oggetti di comune acquisto, non è che deve andarsi a comprare le cozze scappellate del Mar dei Sargassi per fare qualcosa di particolare, no, fa con quello che ha sotto mano un manicaretto all'apparenza appetibile per far contenta chi ha davanti in quel momento. Alberto Castelvecchi, buongiorno. Buongiorno. L'amico Alberto Castelvecchi, un agente letterario, ha dato recentemente vita alle edizioni Aliberti Castelvecchi, ha una consumatissima esperienza su quello che è il talento letterario e l'attività editoriale nel nostro paese. Alberto, tu come giudichi il fenomeno Parodi Clerici? Ma questi libri funzionano, nel senso che mentre per altri generi di consultazione il libro è morto, che ne so, nessuno di noi terrebbe l'enciclopedia Treccani a casa, figuriamoci se la terremmo in cucina, e quando tu stai in cucina non è che apri internet, apri l'iPad e dici fammi vedere una ricetta, con le mani un po' impiastricciate di farina, di uovo, unte di olio, allunghi la mano sull'armadietto della cucina, c'è il libro della Clerici, lo sfogli, insomma i libri di cucina sono piacevoli da tenere in cucina. L'altra cosa è che la maggior parte dei grandi chef blasonati raccontano fuffa, fanno un sacco di chiacchiere, ci presentano acrobazie di minestre di ceci scomposte, carpiate, raddoppiate con un tuffo alla Klaus Di Biasi, e obiettivamente la maggior parte di noi ci ha voglia del tutto onestamente di farsi due spaghi, una sfogliatella, una frittata, insomma le sane cose della cucina italiana. Ecco, vediamo di capire però, Alberto, tu che sei proprio del mestiere, quale fettina di mercato che ancora non era stata colmata hanno scoperto queste due signore? Cosa c'era prima? Io ricordo che il libro classico di cucina dell'Artusi, che il proto Clerici e il proto Parodi, in un certo periodo, io ero ragazzo, veniva legato al fustino del detersivo della lavatrice, tanto certo, era poco ormai appetibile, però veniva intarsiato dai fogliettini, dagli inserti, dalle cose che ci mettevano, dai ritagli, dalle riviste femminili, che c'era quel tipo di piatto che sarebbe fatto, mai fatto. A un certo punto tutto questo è scomparso, poi sono arrivate queste due signore. Attenzione però, Gianluca, il libro di Artusi ha suo svantaggio alcune cose. In primo luogo è scritto in un italiano letterario alto, difficile. Hai ragione. Questi libri no. In secondo luogo le ricette dell'Artusi sono difficili e quindi sono ricette molto elaborate che presumono spesso la noce moscata, grattata, dura prima, le robe eccetera eccetera. E l'altra cosa è il fattore tempo, cioè nessuno di noi ha più, nessuna massaia ha più 3 ore e mezzo di tempo per mettersi in cucina, giusto la domenica. Le ricette di questi libri che hanno un grandissimo successo in questi giorni sono scritte in un italiano semplice, sono rapide e gli ingredienti sono semplici, sono facili da fare. Il fenomeno amplificazione televisiva ha avuto comunque il suo fattore determinante anche in questo successo. Sì, però è anche vero che in televisione noi vediamo continuamente appunto questi chef della fuffa circondati da pentole di batteria pazzesche che fanno operazioni, stagliuzzano cipolle in punta di coltello e diciamo, ma io non riuscirò mai a fare quella roba lì, oppure se faccio quella roba lì come minimo sbaglio la frittura, o se faccio quella roba lì mi ci vogliono 4 ore. Quindi non sempre la TV funziona poi per i libri di cucina. Adesso poi dirò qualcosa di molto reazionario che mi costerà la vita. C'è anche una sorta di, non so quanto gradevole, sforamento anche nel campo della cucina di una figura classica che una volta era arrivata fino a essere rappresentata come macchietta nel mondo della moda, l'uomo che comunque si fa proprio delle attività femminili, le fa a un livello di arte sublime, quindi diventa il grande sarto, il grande stilista, e l'hanno presa gli uomini. Poi il mondo dell'arredamento, se guardi i canali satellitari sono decine e decine di programmi dove ti insegnano a arredare casa, ti insegnano come trasformare il tuo covo coatto in un posto raffinatissimo, sono sempre uomini che danno questi consigli. Poi il come vestirsi, uomini che ti insegnano comunque le regole del buon vestirsi, come si apparecchia la tavola e come si fa colpo con una donna, sempre uomini. Poi alla fine anche i cuochi, ci sono soltanto cuochi, cuochi cattivissimi, cuochi sadici, cuochi isterici, cuochi che sembra che si sono impossessati del regno classico, perlomeno della nostra visione tradizionale, che è la cucina, che era della donna. Rintervengono queste due sane massaie, ancien regime, e improvvisamente tutti tirano un sospiro di sollievo. Può esserci questa venatura, secondo te? Assolutamente sì, perché queste due sane massaie ci riconnettono con la vena reale della cucina italiana. Chiunque di noi abbia avuto una nonna, una mamma degna di questo nome sa che quando mamma o nonna stendeva la pasta, a casa era una festa. Cioè la cucina è anche un luogo di rassicurazione. Le due signore in questione non sono solo belle, sono anche abbastanza, come si direbbe a Roma, che è la città in cui sono nato, buone, cioè esprimono proprio, come dire, quell'aspetto da antica divinità mediterranea legata alla cucina. Poi sono diciamo percepibili come prede possibili, perlomeno somigliano alle colleghe d'ufficio, alle amiche, non a quelle che vedi soltanto oggi nelle pagine di cronaca dei giornali che appartengono a una casta di privilegiati. Sono le donne che ognuno con un minimo di impegno potrebbe comunque pensare di poterci accompagnare. Cioè, io per esempio non inviterei mai a casa mia Vissani dicendogli vieni in cucina e fammi 2 spaghi. La Parodi o la Clerici sì, perché oltre a essere bellocce non c'è l'impressione che ti devastano la cucina con una batteria di 40 schiavi per farti poi un piccolo potage che sono 2 cucchiai e hai finito subito, non so come dire. Sentiamo qualche ascoltatore. Alberto, Renzo, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Renzo De Biase. Io credo che parodi, clerici eccetera vanno messe all'interno di un sistema italiano modestissimo in senso generale. Quando lei prima riferiva a Faletti, non ha detto far Baricco, ma è la stessa cosa. No, ho letto quelli che erano in classifica, non c'è Baricco. Ecco, adesso. Appunto, la classifica è modestissima nei primi 10 titoli, cioè è quanto è periferica la cultura italiana rispetto a quella europea o a quella americana o est europea o orientale in genere. No, l'ultimo Ken Follett è al nono posto nella classifica in cui prima l'ultimo Ken Follett, per dire un titolo di cassetta, è il nono posto, dove il primo posto è Benedetta Parodi. Camilleri al decimo posto. Ecco, appunto, si parla di una letteratura che quella italiana è assolutamente scomparsa a livello europeo, a livello mondiale. Non esiste una letteratura italiana che può essere paragonabile alla letteratura americana, alla letteratura di altri contesti. Ecco, prova a vedere che abbiamo già spostato il tema. Stiamo parlando di letteratura. Cosa hanno a che fare con la letteratura questi libri? Sono i manuali di cucina, l'abbiamo detto con Castelvecchi. Nessuno di noi che faceva paragoni con i primi. Allora si fanno paragoni tra testi diciamo che riguardano i medesimi argomenti, ma che un Philip Roth scompaia dalle classifiche italiane, scompaia dalle classifiche italiane a vantaggio di testi che secondo me Augias, Parodi hanno esattamente la stessa valenza. Faletti e Parodi secondo me sono dello stesso modestissimo livello. Questo è sintomatico di quello che avviene culturalmente in Italia. Beh, oddio, negli ultimi 20 anni. Altri, almeno Augias scrive saggi, Faletti scrive narrativa, sì, che piace. Può non piacerle, ma perlomeno sono letterature di una parte molto limitata, dove è ridotta la cultura italiana in un contesto europeo inesistente. Vabbè, questo non è che se la può prendere con nessuno, li scriva lei, no, i libri, se pensa un esame, cioè non si può stigmatizzare. Sì, ma non è che questo fa sì che ci quando anche altre io non lo stigmatizzo. Io espongo un dato numerico, ho in mano la classifica del Corriere della Sera, che è una di quelle che viene considerata attendibile. Dico, guarda, oh, che cosa singolare, i primi tre libri sono tre libri di cucina scritti da giornaliste o da star della televisione. Su questo rifletto, non è che questo fa sì che mi debba fare adesso aprire un peana perché la letteratura italiana non ha un successo europeo, perché in Italia non scrivono più bei libri o libri che hanno gusti per un mercato internazionale. Alberto Castelvecchi, questo proprio materia tua. Sì, io sinceramente non condivido molto lo sdegno del nostro ascoltatore. Io mai condivido lo sdegno di nessuno, perché lo sdegno no, già è di debole. Dire, possiamo tutti noi dire che la cultura italiana è abbastanza marginale ormai nel contesto internazionale, e questo è un dato di fatto, anche se ci sono buoni scrittori. Ardore di Roberto Calasso è un grandissimo libro, insomma, voglio dire, però io non mi stupisco se Ardore di Roberto Calasso, che è un libro difficile, impegnativo, vende meno dei libri di cucina. Sono oggetti che, anche se sono stampati su carta, non sono facilmente paragonabili. Un libro di cucina è un libro di cucina, insomma, non gli chiediamo niente di più. Non credo che la Clerici ci sono due differenze, insomma, la Clerici vuole passare alla cassa, non vuole passare alla storia, ma fa anche bene, io non ho nessun fa benissimo, anzi, ma sono cose diverse, appunto. Sinceramente non me la sento di stigmatizzare il pubblico popolare che fa letture popolari. Il pubblico di cassetta o di appendice c'è sempre stato, anche nell'Ottocento la gente leggeva i romanzi di appendice, appunto, no? Si chiamavano così, avevano un pubblico vastissimo e non aspiravano alla grande letteratura. La grande letteratura è un'altra cosa, a numeri minori, a lettori minori, è un fenomeno di elite. Qui non stiamo parlando di un fenomeno di elite, ecco, su questo vorrei che il nostro ascoltatore si tranquillizzasse. Andiamo avanti con Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Ah no, Marco, fermo, la devo segare perché devo dare le informazioni per la borsa. Resti in linea, fra un minuto riprendiamo. Fra un minuto. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sono Alessandro e faccio lo chef. Alcune donne famose mi hanno aperto le porte di casa. Non le conoscevo. Loro sono andate a lavorare e io mi sono messo ai fornelli. Prendo innanzitutto la carne. D'abitudine io uso il vitellone. Ciao, sono Eva. Oggi prepariamo le lenticchie con il cotechino. Ingredienti: un cotechino da 400 grammi, 200 grammi di lenticchie, io uso queste qua piccoline che sono più gustose. Ciao, se ce l'hanno fatta tutti questi, potete farcela anche voi. 800 24 0024. Passata la premessa, Adesso è il momento fatidico dell'assegnazione del libro infame. A chi? A chi riuscirà a dare spunti illuminanti, a chi riuscirà ad aprire fessure inebrianti sul fatto che probabilmente scrivere libri di cucina in questo momento è un grande business. Leggo su Facebook tutta una serie di moralisti insopportabili. Si leggono questi libri perché siamo un popolo di ignoranti lobotomizzati dalla televisione. Che palle, sempre questa storia. Non se ne può più, lobotomizzati. Non la guardate se pensate che lobotomizzi. Non è vero che gli italiani non leggono. Prendete la metropolitana la mattina, invece di riempire le strade con quelle file interminabili, automobili, siete tutti nervosi. Osservate quanto in percentuale la gente legga libri nella metropolitana italiana. Guardate, è impressionante. Vedo signore, ragazzi, ragazze, signori anche di una certa età. Arrivano, si siedono, tirano fuori dalla borsa il libro, aprono il libro, per il tempo necessario delle 2, 3, 4 fermate, leggono, richiudono, mettono il segnalibro e vanno ad affrontare la loro giornata. La sera avviene l'inverso. Guardate, osservate, la gente legge molti libri. Le librerie sono piene di persone. Si stampano un'infinità di libri. Basta questa storia che gli italiani non leggono libri, sono un popolo di ignoranti. Abbiamo i nostri difetti fisiologici, le nostre tare genetiche sicuramente, ma non è vero che non leggono libri. Leggono molti libri, secondo me, molti di più di quanti ne leggano gli italiani evidenti, gli italiani che si vedono in televisione, gli italiani che parlano, gli italiani che fanno opinione. Poi Lorenzo: trovo ridicolo che questi bestseller non siano scritti da cuochi conclamati, ma dai soliti personaggi, che grattano su tutto grazie alla popolarità regalatagli dalla televisione. Sono testimonial di campagne pubblicitarie e scrivono pure libri, fra virgolette, come se fosse una sorta di azione blasfema. Allora, avere successo televisivo è un'attività, richiede comunque alcuni talenti, che non necessariamente devono essere talenti legati al livello culturale, alla capacità di cantare, ballare e tirar di scherma. Bisogna avere il pelo sullo stomaco di sopportare un iter molto faticoso per stare in televisione. Comunque, chi sta in televisione ci sta. Ogni commento avvelenato dal livore, dall'invidia, chi vorrebbe starci, non può starci, di chi comunque non apprezza e non capisce lo sproporzionato vantaggio da questo successo, in realtà non aggiunge nulla e non fa pure dire il pensiero. Andiamo al punto. Marco, con cui mi ero interrotto. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottor Nicoletti. Innanzitutto volevo complimentarmi la sua garbatezza, che è un incanto e uno spettacolo sentirla. Faccio una grande fatica perché io sono iracondo e villano di natura. Ma davvero è una delizia per le orecchie. No, ma mi creda, chi mi conosce lo sa. Poi venendo, guarda dottore, io faccio una, dal mio modestissimo opinione, faccio una lettura molto, molto più, diciamo, terra terra. Il successo di questi libri io lo leggo in un'altra, da un altro punto di vista. In realtà, secondo me, a prescindere da se sia la Clerice o qualunque altra persona, i libri di cucina hanno fatto sempre un successo. Perché? Perché secondo me, diciamo che è un modo di illudersi che al di qua del proprio orticello tutto vada bene, un modo di regalarsi un pomeriggio per creare un ciambellone o piuttosto una frittata insieme al figlio piccolo, è un modo, se vogliamo, semplice di evadere, di eludere la realtà difficile quotidiana. Guardi, lei ha detto una cosa molto giusta e in parte l'ho accennata all'inizio. È uno strumento di recupero, di socializzazione di vincoli familiari a tutti i livelli. Il padre che la sera rimane solo con i figli, fa la frittatina ai figli e si diverte, finge che sia un grande ristorante perché semplicemente gli abbrustolisce il pane con un uovo fritto sopra. È una cosa meravigliosa. Una moglie che per grande sorpresa una volta ti fa trovare qualcosa che non è la solita fettina sbattuta sul piatto. È fantastico. Quindi questi libri aiutano a ritrovare leciti e abbastanza gratuiti momenti di intimità familiare. Il suo è un ottimo spunto. Devo dire che voglio premiarla di quello che ha detto. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! All'ascoltatore Marco, che ha colto nel segno quello che è uno dei significati profondi e più plausibili del successo letterario dei libri della Parodia e da Clerici, regalo il favoloso libro infame edito da Garzanti con fascetta arancione con scritto «Un vademecum per resistere ed andare avanti, Mario Capanna per ragionare. 60 domande sul nostro futuro e alcune proposte». È soddisfatto? Tantissimo, dottore, sono anche un po' emozionato. Avrà una dedica personalizzata su questo libro. La ringrazio tanto, per davvero. Che stia attento, perché guardi, ha una copertina con loro carta da zucchero. Se lo tiene in cucina con quelle macchie d'unto e brutto, lo metta nel salottino, fa anche una bella figura. Grazie Marco. Vera, grazie. Buongiorno. Buongiorno Vera. Buongiorno. Eccomi. Mi sta proprio simpatico. E comunque io... Non si allarghi, forza. Sto scrivendo un libro di cucina... con tutte le ricette che erano di mia madre, era russa, in tempo di guerra. Ma sua madre era russa? Russa nel senso che era di nazionalità russa, non pensava. No, ma io non ho mai pensato sua madre russasse, non mi permetterei. Però lei detestava cucinare, ma era un genio in cucina. Soprattutto non c'erano soldi, quindi riusciva a fare cose incredibili. Mi faccio un esempio, che ne so, soufflé di neve, qualcosa del genere? No, un etto di carne macinata, 21 polpette. E che ci metteva in mezzo, di scusi? Tutto, però la segatura. Scusi, anche io le faccio adesso, però nel mio libro ci stanno queste ricette. 21 polpette con un etto di carne. Un etto di carne macinata. Ma sono grandi come bilie queste polpette? No, grandi come un palline, una pallina ping pong, diciamo. Ma con cosa le gonfia? Mi faccia capire. Con cosa le gonfia? Perché per avere... No, beh, ci vuole del pane, chiaramente secco. Ah, beh, le riempie di pane grattato. Il pane secco ci mettevano dentro le scatole di metallo, sui pezzettini, fino a che se ne faceva un certo quantitativo. Quindi una polpetta di pan grattato al sapore di carne? Non pan grattato, pane secco. E carne. Noi facevamo tutta la colonia russa che viveva a casa nostra. Mi dica un'altra ricetta povera. Noi abbiamo una collega, si chiama Maria delle Acciughe, che ospite spesso di Barbara Alverti, guardiana del Faro, noto programma. La conosco bene. Ecco, Maria delle Acciughe una volta ci racconta di un suo fidanzato molto taccagno che gli ha fatto la pasta con le vongole scappate, che praticamente era acqua e sale. Le vongole erano già scappate. Sì, con l'aglio. Ecco, mi dica un'altra ricetta infame fatta per risparmiare, che forse guadagnerà qualcosa. E guardi, ci stanno per esempio delle con tutti i ritagli, oppure pane secco, solo il pane secco. Cioè, praticamente il pane secco è la base. Un soufflé di pane secco col parmigiano. E come dolce un bel dolcetto di pane secco? Sì, anche il dolcetto si può fare benissimo, ci si mette del cacao, diventa quello marmorizzato, bianco-marrone. Bello, si può fare, il pane secco ci si può fare di tutto. Sembra per una esempio lapide. Si fanno delle torte al formaggio che sono favolose. Poi un'altra cosa che fa con il pane secco? Appunto le torte al formaggio. Si mettono, per esempio, se ci sono delle rosette diventa una cosa estetica. Il formaggio non c'è naturalmente, è una crosta di parmigiano seccata, se no che senso ha? La crosta però si deve ammollare. Però è interessante questa cosa, cucina micragnosa, chiamiamola così. Sì, allora... così. Io mi chiamo Vera, si chiama, era il mio libro, Vera cucina o Vera cucina, seconda come Vera mi gira. Cucina, vabbè, mi sembra che questo meriti comunque. Ma siccome tutta la mia famiglia, no, sta zitta signora, stato, Vera. Sono sia giornalisti che scrittori, forse ci rischia la motosega, pubblica. Guardi, rispetto a quello che sto per darle, rischia la motosega. Complimenti, hai vinto un libro infame, colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. All'ascolta... Ah no, sia zitta però, devo dare la dedica all'ascoltatrice Vera, che con impagabile senso dell'economia ci riporta le ricette della guerra, della micragna, della fame, della sua madre russa. Regaliamo il fantastico libro della Bé Pierre, Mio Dio perché? Piccole meditazioni sulla fede cristiana e il senso della vita, introduzione a cura di Frédéric Lenoir, edizioni Garzanti Elefanti. Contenta Vera? Lo gradisco molto. Senta, posso chiederle una cosa? Sì, così magari uno... È una cosa che un pochino mi scandalizza. Noi tutti questi che vediamo tutti i giorni. Sì, si sbrighi però, se no partiamo. No, però sarò breve. Queste cose di cucina in televisione, no, tutti i canali che fanno queste cose elaboratissime con tutto questo cibo. Sì. È vero, così mi hanno detto, che tutto quel cibo per legge lo devono buttare poi? Ma lo butteranno, sì, perché è fatto in fretta e furia, senza condizioni igieniche. Ma ci stanno per esempio tanto canili che ci sono animali affamati. Vabbè, se no magari ci vuole... strada che c'ha fame. Costa più portare il manicaretto di Vissani in televisione al canile che dare una scatoletta al povero. Non si può, perché penso non sia cucinato secondo le regole igieniche. Il cuoco che viene lì non ha delle regole che oggi sono molto... Non può essere dato a un essere umano il cibo consumato e cucinato nel set televisivo. Michela, buongiorno. Troppo io. Pronto? Michela. Ah, sì. Ero distratta, scusi. Si svegli. Buongiorno. Cosa vuole? Volevo dire che odio libri di cucina, ma a parte questo, volevo dire, perché non si fa una classifica, due classifiche, una parallela a quelli più venduti, e potremmo chiamarla la classifica dei libri più interessanti. È interessanti per chi, però? Bisognerebbe fare 5 milioni di classifiche. No, non è vero. Libri più venduti e libri interessanti. Ma interessanti secondo quale principio? A me potrebbe interessare, che ne so, i 1001 modi per fare impazzire vostro marito, che ne so. No, a me interessa la letteratura, interessa qualsiasi libro che esce, però libri venduti in Europa, libri venduti in Italia, o comunque due classifiche classifiche parallele. Ma ci sono, perché guardi, ci sono classifiche abbastanza sul gradimento, diciamo, in generale. Bisognerebbe fare dei gruppi di lettura, dei campioni omogenei, fatti, non so, sì, impiegati. Comunque qualcosa per educare il lettore, o qualcosa per educare anche i ragazzi, per educare a leggere, qualcosa per incuriosire. I libri più venduti, la Parodi, ma Dio mio santo, io odio i libri di cucina prima di tutto. Perché li odia? Le ricordano la sua incapacità? Odio perché quando arrivo magari a scegliere una ricetta non c'ho mai gli ingredienti e mi innervosisco. Di solito se so cosa cucinare compro le cose. Ma lei vive sola o una famiglia? Ho due figli e basta, quindi capisco qual è il suo problema, allora resti in ascolto. Complimenti, hai vinto un libro infame. Hai allora qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. Perché Michele abbia presto qualcosa da lanciare, ma soprattutto perché abbia presto liti domestiche, così riempa il vuoto emozionale dato dalla sua ritrosia nell'avere libri di cucina in casa, noi regaliamo il fantastico libro Newton Compton Editori, scritto da Federica Bosco, autrice del bestseller Mi piace da morire, 101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. È contenta, Michela? Risolverà ogni suo problema questo. A tra poco. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Stiamo tracciando una contemporanea fenomenologia del libro da cucina. Sembrava scomparso, sembrava appartenere soltanto a ricordi delle nonne, quei bracci bisunti che stanno nel cassetto della cucina infarciti di ritagli di giornale, di pezzi di carta, di segnalibri, di bustine del lievito, di fette di mortadella putrefatte messe come segnalibro, oggi sono risorti nelle fantastiche edizioni che segnano i punti chiave in testa alle classifiche di libri venduti in Italia, che sono appunto il libro della Parodi e il libro della Clerici, soprattutto i due libri della Benedetta Parodi, appunto Benvenute nella mia cucina e Cotto e mangiato. Poi segue a ruota Antonella Clerici, Le ricette di casa Clerici. Su questo fenomeno che fa inorridire appunto gli intellettuali puristi, dicono che è schifo, la letteratura è altra cosa, noi riflettiamo. Sappiamo che non si tratta di letteratura, si tratta di manualistica. Vengono messi e assemblati in maniera disomogenea agli altri libri che appartengono al genere della saggistica, della narrativa, della riflessione di pensiero, via dicendo. Semplicemente questa è la classifica dei libri più venduti. Questi sono quelli più venduti. Poi possiamo vedere quali sono i più venduti, i romanzi più venduti, i saggi più venduti. Ci interessa sapere se ne sono venduti tanti. E su questo sto gratificando con succosissimi libri infami i nostri ascoltatori, che possono darci qualche informazione in più sul motivo per il quale questi libri hanno un grande successo. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, sì, l'ascolto. Prima di tutto volevo fare complimenti per la trasmissione che ascolto ormai da un anno e sì, mi piace tantissimo. Però se ascolta un anno dovrebbe sapere che, lo dico perché sprecare una parola adesso me ne fa riguadagnare 200 nei prossimi mesi. Evitate, a me dà proprio veramente, lo dico, ma non perché voglio fare lo snob, da proprio fastidio dire i complimenti, perché lo dicono tutti. È un proforma, è come dire buongiorno a una persona che non conosciamo, di cui non ce ne può più fregare di meno che abbia un buongiorno. Andiamo al dunque, via, andiamo alla domanda. Il dunque è che io utilizzo semplicemente il libro di Benedetta Parodi come manuale in cucina. Oh, finalmente uno che ha il coraggio di dire che l'ha comprato e lo usa. Sennò sembra che siamo tutti, leggiamo soltanto Proust nelle sue molteplici riedizioni. Ecco, lei l'ha comprato e lo legge. Come lo usa? Esatto, ma lo uso più che lo leggo, perché per me è una questione di tempistica. Avendo tempi molto stretti, essendo molto giovane, tra lavoro, andare a giocare a calcio, quindi i miei tempi per stare in cucina vivendo da solo sono brevissimi. Quindi da qualità, invece che comprarsi l'affettato, esatto, e la rosetta e mangiarselo in fretta e furia, si regala qualcosa di diverso. Esatto, stanco di piatti da microonde scaldati e poco nutrienti, su consiglio di un'amica ho acquistato questo libro e funziona. E dirò che funziona. Quindi lei non ha trovato difficoltà, riesce a realizzare le ricette con poco sforzo? Ovviamente con un po' di tempo si è migliorata la qualità delle cose che preparo, però non ci vuole un genio, insomma, è alla portata di tutti, e questo, diciamo, secondo me è alla base del successo. E l'aiuta molto anche nelle relazioni, immagino. Sì, diciamo che con qualche ricetta ho fatto anche colpo. Insomma. E quindi mi dica qual è il suo cavallo di battaglia, la chiave che ha scassinato il grimaldello della verecondia delle sue amiche. Dei semplicissimi spaghetti allo scoglio, ma non con l'acquisto del pesce come si faceva un tempo, cioè in pescheria, lasciandolo poi... Diciamo, metteva un surrogato del pesce che si compra in esatto, pescheria. Perfetto, esatto, e per questo lei deve essere premiato. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! All'ascoltatore Daniele, che fa un uso improprio ma molto approfondito del libro della Parodi, regaliamo il libro infame di Manuel Pagano, L'assenza degli uccelli acquatici, che le sarà molto utile anche nelle prossime ricette di cucina. Bene, andiamo ad Andrea. Mille. Si figura, è un piacere per noi. Andrea. Buongiorno. Io, come l'ascoltatore di prima, ho comprato i libri della Parodi, però li ho regalati a mia moglie. Ah, perché c'erano delle lacune. C'erano delle lacune, diciamo, in questo campo? No, mia moglie è una bravissima cuoca, solo che ha poca fantasia in cucina. Perché cucina benissimo, è veramente eccezionale. Infatti è uno dei motivi per il quale l'ho sposata. Ma come cucina le due cose? Cucina bene, ma fa sempre la stessa cosa da quando vi siete sposati? No, sempre la stessa cosa, no, però già manca di varietà, soprattutto nei condimenti. Poi mia moglie è straniera, non ha la passione italiana. Di quale area geografica? Balcanica. Sì, loro mangiano tutto fritto, bollito, in casseruola. Sì, hanno una cucina essenziale, diciamo. Sì, a mio dire anche poco saporita, è molto pesante. Molto di cipolla, molto di aglio. No, per quello non c'è problema, quello mi piace molto. Ah, le piace? L'aglio, sì. E come è cambiata la sua vita coniugale da quando è entrata la Parodi nel vostro menage? Sì, migliorata decisamente, anche perché sono piatti rapidi, non è quelle cose come quando studiavo cucina io. Preparate 5 giorni prima i fagioli, metteteli a bagno, sa, tutte quelle cose alambicose. Perfetto, quindi vediamo che alla fine ci abbiamo girato tanto intorno, ma vediamo che una ragione c'è per cui la gente acquisti questi libri. Sentiamo Marisa. Marisa. Buongiorno. Io sono un'appassionata di questi libri qua. Ne ho una cantina piena, è dal 78 che li raccolgo, e anche le riviste di cucina. Quindi li colleziona, non li usa? Non... Sì, li usa, li guardo tutti, poi magari li ho divisi ad annate. E ogni anno guardo gennaio, febbraio, e mi sembra di rivedere cose nuove. Sono molto, molto appassionate. E il mio primo libro di cucina, aveva ragione lei, era dentro un fustino di detersivo. Mi ricordo anche a un certo punto a parte. 43 anni fa, e ce l'ho ancora in giro, è mezzo conciato perché è passato tra le mani dei miei figli, un po' però ce l'ho ancora e lo tengo. 43 anni dentro un fustino. Beh, io forse 43 anni, può essere che ricordiamo lo stesso, perché 43 anni fa avevo l'età della ragione, ahimè, purtroppo, quindi può essere che la stessa promozione che ricordo io. Il problema era che sapeva di sapone, profumava di sapone, odorava di sapone. È stato il mio primo libro e i miei cammellini della memoria, e lei lo sa cosa vuol dire, perché io sentivo le sue trasmissioni, sì. Mi si è venuto in mente che io allora avevo 18 anni, avevo aperto quel libro lì. E ce l'ho ancora sul suo di tanto. Vabbè, guardi, questa sua citazione dei cammellini a memoria merita un premio. Avevamo quasi deciso di fermare l'assegnazione, ma riapriamo un attimo le assegnazioni. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Colmerà il vuoto dei tuoi scaffali! Nei 30 secondi che mi separano dalla sigla, all'ascoltatrice Marisa, che ha ricordato i cammellini della memoria e unita da me dal ricordo del libro nel fustino, regaliamo il libro infame L'asina di San Francesco, Laura De Rosa Mochi, edizione Sovera. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, è finita. Alors tous deux on est reparti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.